B. Il ghiaccio. 1. Ascolta il testo. Quando uscimmo dall'aeroporto, il cielo era di uno strano colore, era grigio arancio. Aspettammo per un po' e finalmente incontrammo Lia e Gustavo, gli zii argentini. Li rivedemmo all'aeroporto dopo più di 15 anni. Salimmo in macchina e iniziammo a dirigerci verso il centro della città. Dopo poco tempo passato in macchina con gli zii, ci sentimmo a casa. Lia e Gustavo raccontarono molte cose della città e della famiglia. Gli zii furono così gioviali che ci sembrò di essere lì da sempre, di conoscere bene luoghi e persone. Dopo che fummo arrivati all'ingresso della casa degli zii, grandi sfere di ghiaccio cominciarono a piovere dal cielo. Erano pezzi di ghiaccio così grandi che ruppero i vetri delle automobili e delle finestre. Lasciammo la macchina sotto una terrazza e corremmo verso casa. La zia, per correre più velocemente, tolse le scarpe. Io, nella fretta, persi gli occhiali. Ricordo che restammo chiusi dentro casa, lontani dalle finestre, finché non smise di grandinare. Fu un vero disastro, un fenomeno impressionante.